Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Strano paese quello in cui è necessario fare delle leggi per stabilire che la terra è terra o che la legna è legna e che quindi non si tratta di rifiuti. Il riferimento è all'approvazione del collegato agricoltura che tra le diverse misure l'articolo 41 esclude gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano, pubblico e privato dal regime giuridico dei rifiuti, consentendo quindi di conferirlo direttamente per esempio degli impianti di valorizzazione energetica delle biomasse. Insomma, tradotto, prima un ramo tagliato da un pioppo in campagna era biomassa, mentre lo stesso ramo tagliato in città era un rifiuto. Ora non più. La differenza non così sottile sta nel fatto che la biomassa, naturalmente a patto che sia rintracciabile e di una certa qualità, è un prodotto vendibile, mentre i rifiuti sono qualcosa che per definizione insomma si paga per smaltire. La nuova legge dunque apre una finestra di opportunità per aumentare la produzione di energia rinnovabile anche per ridurre le tasse sui rifiuti. Tuttavia non è detto che questa finestra verrà sfruttata. Ci sono situazioni lineari ma anche situazioni tecnicamente complicate e non manca anche qualche resistenza. Ne parliamo con Francesco Dugoni, direttore di Agire, l'agenzia per l'energia della provincia di Mantova, che si è impegnata diciamo per l'approvazione di questa legge. Buonasera Dugoni. Buonasera Mavis, a lei e ai suoi radioascoltatori. Senta, allora partiamo da qualche cifra, non sono cifre enormi ma comunque significative. Per esempio per la vostra provincia avete fatto i conti precisi su quanto potrebbe risparmiare il comune se riuscisse a valorizzare tutta la raccolta del verde pubblico e privato? Beh, possiamo certamente dare una proiezione a livello provinciale, nel senso che a livello provinciale si stima in 43.000 tonnellate la raccolta di sfalci e potature che derivano proprio da questa manutenzione di aree tanto pubbliche quanto private. E in termini di costo di smaltimento, perché fino a ieri si parlava esclusivamente di rifiuto, abbiamo stimato in 2,5 milioni il costo dello smaltimento, perché grosso modo quaglia 60 euro tonnellata questo tipo di operazione. Ecco, proiettando su scala nazionale queste cifre, anche magari un po' spannometricamente, che cosa viene fuori? Ma sostanzialmente una riduzione di costi di smaltimento dell'ordine dei decenni, che oscilla tra i 180 e i 240 milioni. Ecco, d'accordo. Quindi parliamo di una cifra che su 25 milioni di famiglie è qualcosa come 10 euro l'anno, non una cifra colossale. Però c'è un altro aspetto. Beh, sicuramente svincolando diciamo questi materiali dal ciclo dei rifiuti si possono innescare nuove economie, nuove filiere di conferimento di questi prodotti che a questo punto potrebbero giovare alla causa della produzione di energia da fonti rinnovabili, per esempio. Insomma, c'è la possibilità che si attivi una filiera più positiva, più efficiente. Ecco, dicevo che però c'è anche qualche opposizione, addirittura qualcuno chiede di cancellare questo articolo 41. Naturalmente la norma non ha fatto felici le imprese del compostaggio, che rischiano di vedersi sottratta una quota significativa della loro materia prima oppure di doverla pagare, mentre prima venivano pagati per ritirarla. In realtà non è che il compostaggio sparisca con questa legge. Assolutamente, diciamo che questa norma apre un'opportunità nuova rispetto a un panorama che era diciamo monodirezionale, e quindi oggi come oggi tanto un'azione comunale quanto un imprenditore che intende apprezzare questo materiale, valorizzarlo energeticamente, trova anche un supporto normativo che fino a ieri non c'era. E poi non solo, mi pare che il compostaggio possa essere comunque l'ultima fase di questo processo di valorizzazione della biomassa, almeno in alcuni casi. Beh, se ad esempio ipotizzassimo che appunto la parte a sfalcio venisse destinata ad un impianto di biogas, a valle del processo del biogas abbiamo un digestato e che a quel punto potrebbe essere benissimo oggetto di compostaggio. Ecco. Però il vantaggio è che io prima da tutta questa biomassa ho estratto dell'energia che invece non ho utilizzato. Ecco, senta, un po' più sorprendente è la reazione invece dell'ANCI, cioè dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che dovrebbe essere la prima beneficiaria di questa legge, che invece è stata piuttosto negativa. Come mai? ANCI ha preso questa posizione perché si è fatta portavoce di quelle amministrazioni che vedono in questa operazione una possibile riduzione della raccolta differenziata in termini di percentuale, perché ovviamente lo sfalcio, la potatura rappresenta mediamente un 30% del complesso della raccolta differenziata, venendo a mancare questa cala la percentuale di, materiale che viene... Ecco, cioè c'è un effetto contabile sostanzialmente, c'è siccome quella roba lì che era sempre differenziata sostanzialmente, sì, con gli sfalci e quant'altro, non sono più rifiuti, si tolgono, diciamo, al numeratore, al denominatore di questa frazione che dice la percentuale di raccolta differenziata, e questa tendenzialmente si ridurrà caso per caso in modo diverso, no? Si ridurrà, comune per comune. Esattamente, dipende dal grado di raccolta differenziata che ha raggiunto quel, certo, comune. Se il verde rappresenta una delle voci più significative, o magari l'unica, è chiaro che è un tracollo. Certo, certo. Insomma, quindi c'è un effetto contabile sulla percentuale di raccolta differenziata, però attenzione, c'è un altro effetto che è più importante, positivo invece. Sicuramente c'è un effetto importante richiamato anche dalla Comunità Europea con il suo sesto programma di azione per l'ambiente, che punta a prevenire la produzione di rifiuto, quindi ridurre la produzione del rifiuto stesso all'origine, all'origine. E questa norma può andare sicuramente in quella direzione. Va bene, allora ci fermiamo qui per il momento. Grazie Dugoni. Grazie a voi, buona serata. È tutto, a domani.